maligno si trasforma in fantasia. Nuova giornata, nuovi ostacoli, piena di sfide e di pericoli. La prima goccia d'acqua su di me scava la roccia dell'inquietudine. Il sorriso che c'è dentro di te non conosce la solitudine. Lontano, e anche a testa giù si riesce a volare.